Questa notizia ci sembra una notizia molto negativa, in primo luogo perché rispetto agli annunci a questo punto propagandistici che erano stati fatti in merito alla scelta che di porre la fiducia sulla proposta di legge, evidentemente c'è stato un ripensamento molto forte da parte in particolare del Partito Democratico. A noi naturalmente i voti di fiducia non piacciono, però occorre considerare che le principali riforme che sono state approvate negli ultimi anni sono tutte riforme passate con il voto di fiducia. Su una legge come questa, che avrebbe rappresentato un passo in avanti sicuramente significativo sul piano della garanzia dei diritti di cittadinanza, si sceglie invece di non usare. E il timore è che succeda a settembre quello che è successo fino ad oggi. Oltretutto a settembre saremo in campagna elettorale, quindi insomma abbiamo visto che il tema dell'immigrazione è uno dei temi che ha visto più volta faccia dei partiti negli ultimi tempi. Esatto. Quindi io voglio solo ricordare che noi, insieme alle organizzazioni della campagna L'Italia sono anch'io, l'anno scorso facemmo pressione, in primo luogo nel corso di un'audizione in commissione e poi intervenendo anche nei confronti del Presidente del Senato, per mettere in agenda la discussione della legge in aula, sapendo benissimo che in commissione non si sarebbe comunque riusciti a portare a termine la discussione della proposta di legge. E però l'anno scorso successe esattamente quello che probabilmente succederà a settembre, cioè altri provvedimenti considerati prioritari sono stati messi in agenda bloccando di fatto il percorso della proposta di legge. Quindi a settembre io ricordo solo che saremo anche in una fase molto delicata dell'anno, perché si inizierà a parlare innanzitutto delle note di aggiornamento al DEF e poi della nuova legge di bilancio. Saremo di fatto già in piena campagna elettorale. La notizia di oggi è una notizia che assolutamente ci preoccupa molto. Sappiamo già che la legge in discussione è molto edulcorata rispetto magari alla proposta di legge che avete fatto voi, insomma, che è la legge che avreste voluto voi. Senza la fiducia, perché sappiamo che gli alfagnani sono contrari, ci sarebbe la possibilità di arrivare a un'approvazione a questo punto? Forse è meglio fermarsi del tutto e aspettare la prossima legislatura? Noi vorremmo tanto che ci fossero i numeri in Senato per poter la legge senza ricorrere al voto di fiducia. Io ricordo che peraltro il Movimento 5 Stelle abbia annunciato l'astensione, che in Senato significa voto contrario. I numeri sono veramente effettivamente molto ristretti ed è per questo che ad esempio il movimento dei giovani italiani senza cittadinanza, per esempio, si è posto chiedendo esplicitamente che il governo facesse una scelta netta e decidesse di porre la questione di fiducia su questo disegno di legge. Noi ovviamente non siamo arrivati a tanto, perché ripeto, riteniamo che una riforma così importante, che riguarda la garanzia dei diritti di cittadinanza di persone che sono stabilmente in Italia, in gran parte delle quali sono nate e cresciute in Italia, completamente del tutto inserite nel nostro contesto sociale, culturale e in alcuni casi anche lavorativo, avrebbe tutti i requisiti per essere approvata soltanto con la procedura di voto ordinario. Però gli equilibri politici secondo noi non sono favorevoli, e quindi va anche detto che la pressione da parte della società civile almeno su questa proposta di legge è stata molto forte. C'è stata una mobilitazione praticamente permanente nell'ultimo anno e mezzo, anche in piazza, anche con manifestazioni pubbliche, anche con una buona collaborazione da parte di alcuni mass media. Cioè c'è stato un movimento di opinione che ha manifestato molto esplicitamente il proprio consenso a una rapida approvazione della legge. Se neanche questo è sufficiente, evidentemente significa che in questo paese la ricerca del consenso evidentemente segue altre strade. sempre più preoccupanti a nostro modo di vedere, perché anche tutto ciò che riguarda le ultime scelte e le ultime dichiarazioni in materia di immigrazione sono decisamente preoccupanti, perché sembrano rincorrere sempre unitamente la propaganda delle destre e delle destre peggiori.